Italia in controluce. Le voci dei bambini della Maremma che oggi protestano insieme ai genitori, insieme ai sindaci dei loro paesi. Proseguiamo infatti in questa puntata di Italia in controluce, il nostro Radio Day dedicato proprio ai comuni alluvionati della Maremma, una Maremma finita sott'acqua, lo ricorderete, nel novembre 2012. Ne parliamo oggi perché è in corso proprio questa mattina una manifestazione di quanti hanno perso tutto, di quanti cercano di ripartire, ma per farlo naturalmente hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di fondi. E allora ci colleghiamo con la nostra inviata Laura Bettini. Buongiorno Laura. Buongiorno Piera, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La manifestazione si sta un po' disperdendo, ma dopo effettivamente un momento di occupazione anche dell'Aurelia che ha provocato diversi disagi a coloro che erano in transito tra Roma e Grosseto. Però insomma, ecco, direi una manifestazione di successo, molto partecipata, tranquilla, penso e mi auguro efficace. Ecco, ricordiamo che cosa chiedono, insomma, c'erano anche i sindaci, no, dei comuni alluvionati, cosa chiedono esattamente? Chiedono prima di tutto attenzione, perché come tanti altri luoghi d'Italia in cui sono arrivate catastrofi naturali, sono passati un po' nel dimenticatoio. Chiedono fondi, ovviamente, perché a 4 mesi non è arrivato niente né alle imprese né all'agricoltura né ai cittadini. E chiedono la messa in sicurezza del territorio, perché dalla messa in sicurezza del territorio dipende la loro sicurezza futura, quindi inutile avere fondi per ristrutturare, ricostruire, se in futuro la situazione potrà riproporsi identica. Fondi che finalmente nel fine settimana non sono arrivati, insomma, però hanno dato il via, diciamo, il governo ha dato il via all'iter perché arrivino. Sì, è stato finalmente firmato dal Presidente del Consiglio Monti, ancora in carica, tuttora in carica, questo decreto che sbloccherà per le aree alluvionate della Toscana, quindi non solo della Maremma, quindi stiamo parlando anche dell'area di Massa, 110 milioni di euro destinati al momento alle opere pubbliche, però, quindi non stiamo ancora parlando di imprese e cittadini, solo in un secondo passaggio parte di questo denaro potrà essere stornato, per così dire, dal Presidente della Regione su imprese e cittadini. Ripeto, da questo denaro, diciamo, nulla, in questo monte di denaro nulla è previsto per l'agricoltura. Questa è un'area prevalentemente agricola e turistica, come molti certo sanno in Italia, però ecco, l'agricoltura resta esclusa. L'agricoltura resta esclusa e questo è davvero un bel problema per una zona che di agricoltura sostanzialmente vive. Ecco, dicevamo stamattina della manifestazione, una manifestazione civile, tranquilla naturalmente, ma una manifestazione in cui sicuramente tu hai potuto toccare con mano, ascoltare le storie di chi appunto nel novembre è finito con le loro case, con le loro aziende sott'acqua. Allora vorrei far ascoltare un'intervista che appunto hai raccolto questa mattina, Barbara Baldoncini, membro del Comitato Vita. Sentiamo cosa ha raccontato a Laura Bettini. Il fiume è arrivato in casa mia nella notte, per cui noi stavamo dormendo e ci è arrivato il fiume proprio in piena in casa. Io, mio marito e il mio bambino nell'altra stanza che stava dormendo. Per cui gran confusione, gran rumore, non capisci niente di quello che sta succedendo, la luce è sparita, quindi solamente un gran terrore e niente, ci siamo accorti che praticamente il fiume era dentro casa nostra, per cui l'unica possibilità era di uscire fuori casa. Non è stato facile perché abbiamo un po' tutta la casa chiusa da inferriati e quindi il panico. E comunque insomma alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo andati al piano di sopra e dove abitano i miei genitori e lì niente, il mio bambino era comunque con la febbre alta, per cui lì il panico, inizia a chiamare i vigili del fuoco, inizia a urlare, a chiamare tutti, parenti, amici, venitemi a aiutare a prenderci. E comunque dopo un'oretta e mezza siamo riusciti a salire su il primo gommone dei vigili del fuoco che ha salvato che è partito dalla nostra zona e ci hanno portato ad Albinia, per cui insomma Albinia che era salva, quindi nessuno si aspettava che l'acqua arrivasse ad Albinia, per cui il primo gommone ci siamo salvati tutti quanti, ok, siamo salvi. E dove ci mandano? Ci mandano nelle varie case d'Albinia, per cui dopo 2 ore e mezzo, io ero a casa di mia suocera, ci siamo allagati di nuovo, quindi questo quindi possiamo dire che ho subito 2 alluvioni in un giorno. E niente, salvata 2 volte dal gommone dei vigili del fuoco, che sono gli angeli che abbiamo visto, i primi che abbiamo visto e che ci hanno aiutato. Poi la cosa più importante, e quindi quella che fa più male è vedere la sofferenza dei bambini, perché i bambini hanno veramente sofferto e stanno soffrendo tuttora. Quindi si parla di bambini più grandi o anche piccoli, sono fatti venire attacchi di panico, attacchi d'ansia, bambini che hanno iniziato a fare la pipì nel letto, e quindi lì c'eri te, genitore spaventato, che dovevi dare una risposta al bambino e te non ce l'avevi perché anche te eri nel panico. I bambini dunque, molti dei quali peraltro hanno visto le loro scuole invase dall'acqua e dunque inagibili. Allora ci colleghiamo con la preside dell'Istituto Comprensivo di Albinia, Roberta Capitini. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, che fine ha fatto il suo istituto comprensivo? Dunque, la scuola primaria di Albinia è stata completamente inondata la mattina dell'alluvione e del tutto inagibile. Per fortuna nessuno era dentro, quindi insomma da questo punto di vista non avete avuto il problema di dover gestire i ragazzini. Sicuramente, infatti. E anche la nostra scuola media, il primo piano, è stato completamente inondato, quindi la segreteria e tutto il primo piano. E dove stanno facendo scuola adesso bambini e ragazzi delle medie? Sì, i ragazzi delle medie nel piano superiore, che per fortuna aveva le aule, in cui erano adibite le aule. I ragazzi invece della scuola primaria, 10 classi, si parla di 200 alunni, nel giro di 3 settimane sono stati collocati nel secondo piano dell'istituto commerciale di Albinia. Grazie all'aiuto della provincia e del comune siamo riusciti a reperire banchi, sedie, lavagne, mancava tutto. Certo, invece è importantissimo per i bambini tornare immediatamente a scuola, no? Perché è vita normale rivedere i propri compagni, rivedere le proprie maestre. Mi raccontava prima di questa diretta che si è quasi sorpresa, insomma è scattata una solidarietà che forse non si aspettava. È stata la prima, per fortuna, esperienza in cui mi sono trovata e veramente ho sentito il caldo abbraccio della solidarietà, questo sì, da parte di enti, di associazioni, di privati, semplici privati, che hanno voluto aiutare sia nell'immediato con dando quaderni, zaini ai ragazzi che avevano perso tutto, e successivamente veramente c'è stata tanta solidarietà di cui ne ha usufruito soprattutto, ecco, ne hanno usufruito i ragazzi, certo. Ripartire è stato importante per loro. Abbiamo fatto una seconda accoglienza noi, gli insegnanti hanno veramente fatto una seconda accoglienza dopo settembre, per riparlare dell'evento che hanno subito, per elaborarlo, paure, certo. Rielaborarlo, buttarlo fuori. Esatto. In bocca al lupo, signora Capitini, a lei e ai suoi ragazzi, preside dell'Istituto Comprensivo di Albinia. E noi invece chiudiamo ricollegandoci con la nostra Laura Bettini. Laura, la manifestazione è finita, si torna dunque al lavoro, per chi non ha perso, per chi non l'ha perso. Esatto, sì, per chi non l'ha perso, purtroppo sì, dobbiamo fare questa chiosa, si torna al lavoro quotidiano del ciascuno al suo, anche Radio 24, vero Piera, torna al suo lavoro quotidiano, cioè continuare a seguire questa vicenda fino almeno sicuramente tutta questa giornata, alle 21 di questa sera, con l'appuntamento lo per speciale, certo. Chiudere insieme ai protagonisti. Assolutamente sì, dalle 21 alle 22 ritroveremo Laura Bettini in diretta proprio dal comune di Orbetello per continuare a raccontarci il disagio che stanno vivendo i comuni alluvionati e per cercare di aiutarli in qualche modo, se non altro facendo conoscere la loro situazione. Vi ricordo peraltro che testimonianze, foto, interviste potete trovarle anche sul nostro sito radio24.it, che è diventato il nostro secondo microfono, insomma, per far conoscere quanto sta accadendo in Maremma. Ringrazio Laura Bettini e ringrazio in regia Gianmarco Ferronato. Un saluto da Maria Piera Ceci. Domani torna Italia in Controluce alle 13:30.